Progetto WWF, intervista numero 2 a Matteo Pazzi. Bene, siamo qui nella sala di rappresentanza del Museo Civico di Berriguardo e ho il piacere di intervistare Matteo Pazzi sulla sua esperienza a Voghiera e anche qui al museo. Ringrazio Matteo Pazzi per questa opportunità e per aver pensato a me in occasione di questa ricerca che trovo molto interessante. Allora, Voghiera ieri, o Voghiera oggi o Voghiera domani. C'è una di queste che ti ispira di più per cominciare? Voghiera ieri. Vai. Allora, per me, io sono nato il 22 settembre 1977 a Este, in provincia di Padova, e ho iniziato a vivere a Voghiera all'età di 5 anni. Ho frequentato per qualche giorno l'asilo comunale di Voghiera e poi ho frequentato le scuole elementari di Voghenza. Non sono andato alle scuole medie di Voghiera, mi sono trasferito a Ferrara, poi a Ferrara ho fatto liceo e altre cose, università, eccetera, eccetera. Ho ripreso a collaborare, ad essere presente a Voghiera quando avevo circa 19-20 anni. E ciò che vorrei ricordare è un periodico locale che si chiamava La Voce di Voghiera. Era un periodico di stampo politico, riconducibile al Partito Democratico della Sinistra, poi DS, poi PD. È durato 20 anni, dal 1995 al 2015, ed era un quadrimestrale, quindi aveva 3 uscite all'anno. Venni contattato dal caporedattore, che era il professor Mario Gessi, e iniziai a collaborare nel 98. Fu una grande esperienza anche di scrittura, perché io ero un appassionato, sono sempre stato un appassionato, pur essendo, diciamo, un dilettante di scrittura e di letteratura, e imparai ben presto che scrivere articoli era qualcosa di completamente diverso rispetto a scrivere un racconto o una poesia. Il periodico locale è riconducibile ad una complesso di altre pubblicazioni che erano riconducibili a Cronache Ferraresi, che diciamo era l'ombrello sotto il quale vivevano queste altre pubblicazioni. L'esperienza fu importante perché vissi sulla mia pelle il passaggio tra un modo di fare un periodico locale attraverso il Menabò, quindi attraverso qualcosa di cartaceo, ti prego non metterti a ridere perché è la verità. Tanto il giornale cartaceo lo leggo anch'io. Il Menabò è fatto proprio di carta, quindi un giornale di carta con articoli ritagliati per trovare i box giusti, con le parole giuste, insomma, cose di questo tipo, fino all'ultimo periodo dove era tutto digitale in sostanza, quindi non facevi nient'altro che passare a Mario, al professor Gessi, il documento, l'articolo in formato Word, e automaticamente, come per magia, in realtà non era una magia, si creava una sorta di periodico virtuale con foto e tutto il resto. Sì. Era un grande passaggio. Tipo di articoli scrivevi per la Voce di Voghiera? Scrivevo articoli che erano riconducibili al mio indirizzo di studi, che era Scienze Politiche, e attraverso La Voce di Voghiera, quindi io sostanzialmente mi interessavo di politiche sociali, politiche territoriali, di pianificazione territoriale, di politiche culturali, e fu una grande esperienza anche questa, perché attraverso la collaborazione della Voce di Voghiera mi impegnai in politica e divenni consigliere comunale nel 2001 in occasione di una surroga, poi mi candidai a sindaco nel 2009, perdendo le elezioni da una cara amica che poi divenne sindaco, che si chiama architetto Chiara Cavicchi. Questo è passato in consiglio comunale diversi anni, insomma. Quindi hai visto l'inizio della Seconda Repubblica a Voghiera, sostanzialmente? Praticamente sì, la fine della Prima Repubblica, l'inizio della Seconda Repubblica. Iniziai a collaborare che non c'era ancora il Trattato di Lisbona, in sostanza, più o meno. Eravamo dopo Maastricht, ma non eravamo ancora nella Unione Monetaria, quindi non c'era ancora l'euro, c'erano le lire. Dovevate fare i bilanci ancora in lire, quindi? Ancora in lire. tutte le copie, io ho molte copie della voce di Voghiera a casa, quindi le lascio anche a libero consultazione per eventuale implementare, per implementare i documenti della tua ricerca. E sono una testimonianza importante. Al centro di ogni pubblicazione vi erano due pagine, anzi quattro pagine, dedicate alla memoria di Voghiera, con foto riconducibili alla prima metà del Novecento. Era la sezione si chiamava Come eravamo, ed è una bella ricerca, insomma. Anche in quel caso è stata una bella ricerca di natura etnografica, visivo etnografica, bella, seguita bene. E un po' questo è quanto. Io lascio copie di questi documenti, li lascio volentieri in presa visione. Com'è stata la disgregazione dei partiti tradizionali della Prima Repubblica, quindi il PC, l'ADC, nei nuovi equilibri poi? Drammatica. Perché so che, avendo fatto un minimo di ricerca, Voghiera è stata governata prevalentemente dal Partito Socialista o da giunte di centrosinistra, sostanzialmente, fino agli anni 90. Fino al 1900, allora, nel 1995... vinse una lista civica, una delle prime, secondo me, esperienze di lista civica in Emilia-Romagna, forse anche in Italia, a vincere. E riuscirono a sconfiggere il candidato socialista, Lauro Capisani, che era alleato con il Partito Comunista, che era, però si era disgregato alla Bolognina, diventando Partito Democratico della Sinistra e Rifondazione Comunista. Io mi presentai come indipendente di sinistra, non in quell'occasione, nell'occasione successiva. Nel 99 si presentò come candidato sindaco Mauro Ballani, caro amico. Nel 99 si presentò Lauro Capisani, che era il sindaco uscente. Perse le elezioni da Neda Barbieri, che divenne sindaco nel 95 e anche nel 99 riconfermata. Nel 95-99, nel 2004 non poteva ricandidarsi perché c'era il vincolo di due mandati. Nel 2004 si candidò come centrosinistra un amico, Mauro Ballani, caro amico di Montesanto, che secondo me è coinvolgibile in questa ricerca. E fece una campagna elettorale incredibile, con una porta a porta allucinante. Io lo aiutai, andai con lui, io ed altri, con lui di porta in porta, di casa in casa, a presentarci. Perse le elezioni perché il candidato della lista civica era un'altra persona che mi piacerebbe coinvolgere, farti conoscere in questa ricerca, il dottor Claudio Fioresi, amico di Mauro Ballani, perché questa è una comunità piccola. E Claudio Fioresi vinse le elezioni bene, un po' per merito, un po' perché era già assessore, un po' perché la sua famiglia era molto conosciuta, un po' perché se lo meritava, quindi anche a detta di Mauro, insomma. Successivamente nel 2000 siamo nel 2004, nel 2008, 2009 si candidò, quindi devo correggere un po' le mie date iniziali, Bianca Rosa Nagardenghi, e poi mi candidai io nel mandato successivo, più o meno. Le date non sono corrette, ma non è questo, il trend è quello lì, insomma. Non è il numero l'importante, è il trend in questo caso. In realtà ero talmente coinvolto e appassionato che confondo le date, perché studiando scienze politiche era come vedere l'immediata applicazione di quello che studiavo nel contesto locale. Questo è un po' quanto. Questa è la Voghiera, mia Voghiera di ieri. Poi la Voghiera di oggi, esatto, nel 2026. Che effetto ti fa la città? Allora, la Voghiera di oggi è una Voghiera che non ha più la voce di Voghiera, non ha più la sezione del partito, non ha più partiti politici in loco. È un comune che si trova in un contesto di condivisione di certi servizi con altri comuni, è una quasi unione comunale. Masitorello, poi? Masitorello, Voghiera e Ferrara per quanto riguarda i servizi sociali. Perché anche la storia delle unioni e le disunioni di comuni qui a Voghiera sarebbe un capitolo a parte. Condivido pienamente. è tutto molto più, tutto molto complicato. Io non invidio, ad esempio, il sindaco attuale, perché mi rendo conto un po' da esterno quanto difficile sia ormai gestire un comune. C'è un motto tra chi vince le elezioni e fa il ruolo di sindaco, che occorre grande coraggio, grande sangue freddo, devi metterti nella testa l'idea che riceverai delle denunce, perché sei responsabile di qualsiasi cosa, devi metterti anche nell'ordine delle idee che ti servono i primi 5 anni per capire come funziona la macchina, anche se è un'esperienza pregressa, anche se sei laureato in economia o in scienze politiche, con quello che vuoi, e poi le tue idee, se riesci a portarle avanti, portarle a casa, gli effetti delle tue idee li vedi nel mandato successivo, perché vivi di luce riflessa per i primi 2 o 3 anni, perché ci sono tutte le programmazioni precedenti che ricadono in termini di bilancio di attività sulla tua attività. Quindi, gli uomini fanno la storia, ma non la storia che vogliono. Eh sì, in quel caso lì sì. Quindi la voghiera di oggi è una voghiera che ha delle difficoltà per quanto riguarda le prospettive future. È un bel comune, ha un grande patrimonio storico-culturale, ha subito un calo demografico importante, siamo passati da 5.000 abitanti quasi a 3.009, 3.008, 3.007. In un lasso di tempo, degli ultimi 25 anni? 20 anni, più o meno, 25 anni. La zona artigianale di Gualdo è un punto interrogativo, per tante ragioni. Molti di quei contesti sono dei magazzini, non sono delle attività produttive, e questo è normale, normalissimo. Molte aziende storiche hanno chiuso, molti negozi storici hanno chiuso, ci sono molti contesti abitativi non utilizzati per tante ragioni, e è un posto nel quale si vive bene, dove c'è forte senso della comunità. Come tutti i contesti aperti e chiusi, non è facile inserirsi se vieni da fuori, diciamo, però ci sono persone che hanno grande cuore e comunque grande intelligenza. La cosa che mi ha colpito molto di questo territorio da subito era la preparazione culturale. Ti faccio un esempio: in un territorio così piccolo ci sono molti professori che insegnavano al conservatorio. La sperimentazione musicale, quindi di voghiera, della scuola media di voghiera, ha creato un indotto, ha creato interesse. La banda di Voghenza, voghiera, è una banda che ha delle qualità. L'assessore alla cultura di oggi suona uno strumento musicale bene, veramente bene. E poi ci sono scrittori, diciamo, anche famosi come Nicola Lombardi, ma tanti, anche tanti altri. Ci sono tanti... Ci sei anche tu? Come scrittore di voghiera. Io conto poco. C'è un ragazzo che abita qui, un giovane, diciamo, che abita qui vicino a dove ci troviamo, che l'ho sentito suonare con la sua band, ed è veramente bravo. Fa canzoni importanti, underground, ed è un cantautore italiano bravo. Tutto però avviene nella normalità più assoluta. Qui non ci sono persone che se la tirano, diciamo, più di tanto. Ieri abbiamo incontrato, ad esempio, il dottor, faccio nome e cognomi, il dottor Chiavicchi, che è inserito nel comitato etico ferrarese bolognese per quanto riguarda la valutazione dei progetti di ricerca di ordine scientifico medico. Abbiamo incontrato ieri Neda Barbieri, che è stata candidata alla provincia con un progetto importante di natura civica. Poi abbiamo incontrato persone che hanno un background in termini di un retroterra, di un curriculum vitae in termini fotografico, grazie al Fotocineclub importante, persone che hanno vinto premi importanti, che hanno anche pubblicazioni importanti. Poi abbiamo incontrato persone che hanno fatto di sfuggita l'abbiamo visto, mi sembra, il professor Valeriani o Moreno Finottelli, che è un baritono, se non ricordo male, che viaggia in tutto il mondo, conosciutissimo in Giappone, non in Italia, non so perché. O anche è un classico delle band italiane più conosciute fuori dall'Italia, anche che hai detto. Ma Moreno Finottelli è una persona veramente di talento, un attore, un baritono, mi sembra baritono, in Giappone è bravissimo, conosciutissimo. Alessandro Boninsegna, che gestisce questo museo, è una persona notevole, lo conoscevo di fama da tanto tempo nell'Università di Bologna per le sue attività svolte in quel contesto in maniera molto indiretta. E so che è un ottimo fotografo, so che ci sono altre persone in questo territorio che hanno anche pubblicazioni di ordine medico importante, penso al professor Volta, ma è solo uno dei tanti. A Ferrara, ad esempio, nell'azienda ospedaliera universitaria c'era il professor Avato, che si è anche occupato di un caso importante, mi sembra il caso di Cogne. Quindi, come si può dire, esistono... C'è un capitale umano eccellente qui in zona, sostanzialmente. Sì, però tutto viene... e tutto è come immerso nella normalità più assoluta. Quindi... sei al supermercato, puoi incontrare Tizio Caio Sempronio, tu sai qual è il suo curriculum vitae, però sono persone assolutamente serene, e tutto questo scandalizza anche qualcun altro, però secondo me va bene lo stesso. Questa è la Voghiera oggi. Voghiera domani, invece. Voghiera tutto domani. Questo gran capitale umano e le inevitabili trasformazioni demografiche e produttive del territorio. Dove porteresti Voghiera? Ah, guarda, il mio sogno è un sogno molto concreto, forse anche banale, riguarda bel riguardo, è un sogno romantico. Il sogno romantico sarebbe valorizzare al massimo i libri presenti nel museo. Ce ne sono circa 230-250, sono pubblicazioni che secondo me meritano di esistere e meritano anche di essere prese in considerazione seriamente. Mi piacerebbe tantissimo che nel futuro si creasse una rete interbibliotecaria anche tra le biblioteche e bookshop dei vari musei presenti nella provincia di Ferrara e a Ferrara. Sono stato recentemente nel museo del Museo Ebraico. Al MEIS, quindi? Al MEIS, a regalare dei libri che avevo trovato in una bancarella tanti anni fa, che erano di origine scritti in ebraico ed erano stati pubblicati a Livorno nel 1852. Li ho regalati perché erano un patrimonio culturale degli ebrei, della religione ebraica. Ho visto, attraverso questa donazione, che cosa c'è dentro e dietro il MEIS, una biblioteca straordinaria, con testi incredibili, consultabili, il bookshop è notevole, e tutto questo capitale però non mi sembra che sia in rete. Quindi ci sono probabilmente molti musei civici che hanno molto materiale, e questo dovrebbe essere più serio. L'altro sogno riguarda sempre la questione infrastrutturale, la creazione quindi di una biblioteca qui all'interno e di un punto di lettura, di un'aula didattica in maniera più precisa, diciamo meglio definita, più forseggevole, il recupero della sala del pozzo, penso che si chiami così. Ne direi che il sogno di bel riguardo dagli ultimi 10-15 anni. Esatto, la sala del camino, non so se l'hai vista. No, non l'ho presente. Il camino non c'è più, però esiste, è in vendita quel piccolo pezzo di bel riguardo contiguo alla sala della vigna. Quindi l'ideale sarebbe acquistare questo contesto, recuperarlo da un punto di vista museale, soprattutto gli affreschi presenti sulle travature, e usarlo come sistema di completamento. L'altro sogno, che è un sogno iperbolico, sarebbe l'acquisto e la rimessa a norma della seconda parte della sala nella quale ci troviamo. Dopo di questo, penso che l'ideale, l'ultima ciliegina sulla torta, sarebbe riuscire a mettere in rete anche lo spazio espositivo che abbiamo di fianco alla porta del museo. Quindi la parte di arte contemporanea. Non solo, la parte di arte contemporanea c'è in chiave ufficiale, nella parte frontale del torrione. Sì. C'è una sala dentro il torrione che dovrebbe essere, secondo me, recuperata e essere messa in libera visione del pubblico, però c'è un problema forse infrastrutturale. Quella sala contiene delle opere che sono importanti e belle, interessanti, e non utilizzate in questo momento, ma di fianco alla porta del museo c'è un privato che aveva intenzione di creare, se non ho capito male, una piccola galleria d'arte con dipinti eccetera eccetera. Sarebbe un privato ed è qui di fianco, quindi un domani questo diventerebbe davvero qualcosa di incredibile, perché cioè, ci sarebbe l'entrata di un museo privato di arte contemporanea qui nel fronte strada, nell'accesso al Torrione, la seconda sala espositiva dentro il Torrione, tutta la parte museale attuale, l'aula didattica, la sala del camino, la sala della vigna. Questo sarebbe associato poi ad un'eventuale collaborazione con l'Orto Botanico di Ferrara, l'ex facoltà di biologia e i florovivaisti locali. Ce ne sono alcuni che hanno un prestigio internazionale in questo contesto, un'altra eccellenza. Tu riusciresti a creare qualcosa di meraviglioso, perché tra i fiori, i camminamenti, un'ipotesi di giardini anche nella parte esterna e tutto quello che ho raccontato prima, beh, questo diventerebbe veramente qualcosa di importante. Questo è il mio sogno. Beh, direi che abbiamo coperto anche la parte del museo che vorrei, giustamente in questa parte. Sì. Invece, per come vedi Voghera con le sue eccellenze culturali, con l'aglio, con altre proposte di DOP? Cioè, quali sono gli export? Cosa dovrebbe veramente rappresentare, secondo te, oltre all'aglio, Voghera all'esterno? Allora, la questione dell'aglio è una questione un po' problematica. Devi sapere che io in Consiglio Comunale feci una gaffa incredibile, perché avevo scritto un intervento in forma scritta, ero molto agitato, ero molto giovane, sono sempre stato molto timido, quindi per me era uno shock intervenire in quel contesto, e scrissi una cosa del tipo: pur non apprezzando molto l'aglio come alimento, devo ammettere che è stato un grande risultato per la Giunta Comunale ottenere o attivarsi per ottenere la DOP. La parte tra parentesi viene censurata brutalmente. Esatto. Oggi non l'avrei mai scritta, insomma, però era la verità. Questa battuta serve a poco. In realtà ottenere la DOP per un prodotto come l'aglio è stata una grande cosa. Come abbiamo sempre detto da anni, da molti anni a questa parte, l'aglio non può essere un punto di arrivo, ma è e sarà sempre un punto di partenza. Il consorzio produttori aglio di Voghera è interessante, sì, è molto dinamico, molto attivo, riesce a coinvolgere i media, però per un vampiro come me è un po' imbarazzante parlare. Non dimenticherò mai alcune cose: la treccia dell'aglio chilometrica che riuscirono a realizzare appena ottenuto la DOP in occasione della festa dell'aglio, la treccia d'aglio più grande che abbia mai visto in tutta la mia vita. Cosa dire? È un mondo complicato, però posso dire una cosa che penso veramente: la questione della produzione chilometri zero funziona davvero, sai Matteo? Perché a poca distanza da casa mia, sulla pista ciclabile, ci sono due persone che hanno la terra, i terreni, che producono e coltivano la terra, imprenditori agricoli, e che vendono direttamente a chilometri zero, a metri zero. Sì, in questo caso proprio metro zero. Metro zero i loro prodotti. E a volte io vado al supermercato a comprare la frutta e la verdura di stagione, ma a volte vado anche da loro. È tutto un altro metodo di acquisto, è tutto un altro modo di fare, è tutto un altro modo di vivere anche il processo di acquisizione di alimenti. I due agricoltori, uno dei due si chiama la Campanella, l'altro non mi ricordo come si chiama, in uno comprai delle ciliegie buonissime chiamate Duroni. Sì. Favolose, stupende, ne ho presi tantissime, erano ancora in vita i miei genitori e passammo così un pomeriggio a mangiarle insieme. che dice che quell'elemento di separazione che è il distributore del supermercato in effetti cambia la tua esperienza, il tuo rapporto con il cibo, sì, rispetto certo. a andarlo a comprare osservando anche fisicamente dove è stato raccolto questo, esatto. questo alimento. Sì, è proprio così, anche perché hai l'albero di ciliegie lì di fianco. Mm-hmm. E ricordo un episodio molto divertente, che era quello della mucca-apra. Questo agricoltore aveva un essere vivente specialissimo a casa sua, nell'Aia, che era un, se non ricordo male, un prodotto della genetica. Quindi aveva un incrocio tra una capra e una mucca. E c'era questo essere vivente bellissimo, perché sembrava, aveva il corpo di una capra, ma aveva il, la, la pelle pezzata come una mucca, mm-hmm. che era isolato da tutti gli altri, quindi dagli altri animali, che non lo riuscivano a riconoscere né come mucca né come capra. Quindi lo lasciavano sempre in disparte. E pensai molto a questo animale che non poteva riprodursi perché aveva tutto un problema genetico afferente alla sterilità, era isolato ma era felice, mm-hmm. e soprattutto aveva con sé, attorno a sé, un gatto che stava con lui. Beh, dopo tutto è un gatto, esatto. sono, hanno quella natura lì, sono esatto. abbastanza ribelli e anticonformisti. Esatto, e questo mi colpì molto perché mm-hmm. c'era un altro piccolo cane che prendeva, che aveva preso a cuore, insomma, la sorte di questo essere vivente strano. Mm-hmm. Io non avrei mai pensato di trovare una cosa del genere a pochi metri da casa mia, insomma. Ed era la prima volta che vedevo un essere vivente frutto di un esperimento, di un'esperienza di natura genetica. Spero che questa parte non possa mettere in difficoltà nessuno, ma no, è assolutamente. Quello che ho visto. Anche perché inevitabilmente parlare, cioè Ferrara con le sue eccellenze di ricerca nel settore di agronomia e comunque di zootecnia, sì. è un pezzo del territorio. Io non so neanche se poi, come si può dire, questa parte sia il frutto della mia immaginazione oppure no, perché tanto potrebbe anche essere a questo punto. Però io ricordo questo essere vivente. Sì. Invece nell'altro produttore, ricordo un'altra esperienza incredibile, eri in questa sorta di piccolo negozio, mm-hmm. Ogni tanto si vedeva sfrecciare un volatile che letteralmente ti passava sopra la testa, e la ragazza che gestisce la campanella, un'amica di mia mamma, giovane, tra l'altro una ragazza giovane, imprenditrice, si metteva un po' a ridere dicendo: guarda, non vi preoccupate, sono le rondini, hanno i nidi nel capannone di fianco, che era il fienile, passano qui perché si trovano bene e passavano sopra la testa delle persone. Mm-hmm. Sono tante piccole esperienze che magari in un supermercato proprio non puoi neanche immaginare di fare. Quindi mettevo nei panni di un bambino e si vedeva questi esseri viventi sforzare sopra le teste degli acquirenti, e magari non avevamo visto nulla. No, deve essere un'esperienza inusuale, cioè. Sì. Non dico distinzione promozione turistica, ma sicuramente anche in un posto così piccolo. Vabbè, sì. Tanto abbiamo detto che Voghera, comune di 3.500 abitanti, sì. tu trovi un sito UNESCO, sì. tu trovi uno dei castelli sì, più sì, grandi, sì. anzi, una delle dimore nobiliari ai tempi più grandi dell'Italia rinascimentale. Sì. Quindi, nonostante sia un posto piccolo, la realtà è sempre più sorprendente della fantasia. Sì, sì. Questo è proprio vero. Ad esempio, c'è anche un altro spazio che mi ha un po' cambiato, mm-hmm. ed è a Gualdo. A Gualdo c'è un centro civico nella ex scuola elementare, che ha una struttura fascista, è di epoca fascista, quindi c'è scuola femminile, entrata a scuola femmine, entrata a scuola maschi. Mm-hmm. Ti consiglio di andarla a vedere perché è molto indicativa di com'era l'architettura in epoca fascista. Se è possibile, potremmo anche accedere alla struttura del centro civico, che è una sala nella parte superiore, mm-hmm. per vedere com'era concepita una scuola elementare in epoca fascista. Di fianco a questo centro civico c'è un parco che è intestato alle vittime della mafia. C'è un centro di attivazione per le macchine elettriche, un distributore erogatore di energia elettrica per le auto elettriche. Poi c'è un parco, un piccolo parco che contiene delle giostre per i bambini, ma anche degli altri strumenti, che delle altre infrastrutture che sono riconducibili alla palestra. Quindi è una sorta di palestra all'aperto. Sì. Ed è molto divertente perché vedi questo comune, che è questa frazione che si chiama Gualdo, che ha un edificio fascista, poi ha un elemento tecnologico innovativo che è il caricatore delle macchine elettriche, poi vedi una palestra a cielo aperto, che è proprio una palestra, quindi vanno a fare attività e esercizio, poi vedi le giuste per i bambini. Quindi hai la giusta posizione di epoche storiche diverse, generazioni diverse, modi di concepire lo spazio e anche proprio un piccolo alla tecnologia. Proprio così. No, questo è quello che parlavo quando parlavo del palinsesto del territorio, con simboli, epoche che si sovrappongono e comunque si rimangono a noi visibili. E poi due cose: se prendi la strada e vai verso la campagna e trovi un bosco, un boschetto, in mezzo a quel boschetto c'è una casa antica che ha parecchi anni, purtroppo non è visitabile ed è un peccato. Io sogno da una vita di andarla a vedere. Ma è una casa moderna o antica? Dovrebbe avere un centinaio di anni, forse anche di più, non mi ricordo quanti. Se vai ancora avanti incontri un agriturismo che si chiama La Strozza. La caratteristica di questo agriturismo è che ha una grande piscina e fanno corsi di nuoto nel periodo estivo. Giri verso destra, vai avanti, incontri un florovivaista veramente importante che commercia a livello mondiale. Disperso nel mezzo del boschetto. Giustamente, perché la sua attività ha a che fare con i fiori. Di fronte a questo, all'ingresso del florovivaista, c'è una villa bella, un recupero ottimo, un lavoro meraviglioso. Lì ci abita un amico e ci siamo incontrati in ambito politico, che è un professore universitario, un ex professore universitario, pro rettore alla ricerca per l'esattezza dell'Università di Ferrara, non faccio il nome, e persona che ha pubblicazioni, che aveva pubblicazioni scientifiche in tutto il mondo, nelle più grandi riviste mediche del settore. E questa è Voghiera. Questo poi sono i momenti di passaggio. Bene, allora Matteo, ti ringrazio per la tua intervista, per questo quadro di Voghiera molto interessante, e con questo concludiamo l'intervista. Grazie di cuore. Sono stato noioso? No, assolutamente.